Sulla terrazza. Oh, it's wonderful. The view is just... Meraviglioso, vero? Sì, meraviglioso. Ecco il menù e la carta dei vini. Grazie. Allora, che cosa vuole mangiare? Oh my God, it's all in Italian. Certo, siamo in Italia. Vuole un antipasto e starter? What do you recommend? Dunque, un antipasto toscano, naturalmente. Non è vegetariana, vero? Vegetarian? No, why? Perché c'è il prosciutto, il salame, la finocchiona. It is pork. Okay, I'll try it. Vogliono ordinare? Non siamo ancora pronti. Oh, would you please order for me? Va bene. Allora ordiniamo. Benissimo. Mi dica. Allora, due antipasti toscani, poi due penne all'arrabbiata. Le piace il cibo piccante? Sorry? Sì, scusi. Do you like spicy food? Oh, yes! Allora sì. Prendiamo due penne all'arrabbiata. Bene. E di secondo? Di secondo... Oh, no. I think two courses are enough for me. Ma è sicura? Un'insalata mista e mixed salad. No, that'll be fine. Va bene. Allora non prendiamo il secondo. Per me, del formaggio pecorino. Del formaggio pecorino? Bene. E da bere? Del vino, naturalmente. Del vino rosso. Abbiamo un ottimo Chianti. Benissimo. E una bottiglia d'acqua. Naturale o gasata? Do you prefer still o sparkling water? Oh, still for me, please. Naturale, per favore. Ecco gli antipasti. Buon appetito. Grazie. Grazie. Oh, it looks beautiful. And it's a huge portion. No. È una porzione normale. Allora, buon appetito. Buon appetito. Allora, le piacciono le penne? Piacciono? Do you like penne? Oh, yes. Buonissimo. Buonissime. Ok, buonissime. Oh, I have never eaten so much in my life. E non abbiamo preso il secondo. Vuole un dolce? E dessert? Un tiramisù? Tiramisù. Oh, that would be nice, but really, I can't. No, grazie. Un caffè, allora? Sì, un caffè. Scusi? Mi dica? Due caffè, per favore. Due caffè, subito. Ecco i caffè. Grazie. Oh, but it's an espresso and there's no milk. Naturalmente. In Italia, caffè significa un espresso senza latte. Vuole del latte? Some milk. Oh, yes, please. Allora, bisogna ordinare un caffè macchiato. Un caffè... macchiato. An espresso with a drop of milk. Ok, un caffè macchiato, per favore. Subito, signorina. È tardi e lei è stanca, vero? Yes, stanchissima. Scusi? Signore? Il conto, per favore. Subito, camera 37, giusto? Sì, ma pago subito con carta di credito. Ecco. No, Lorenzo, you're not going to pay. Naturalmente, lei è mia ospite.